24 mattino. Questo sistema sta cercando in maniera voluta e disegnata ad arte da tempo di mettere gli uni contro gli altri, di creare una guerra fra poveri, perché se io introduco a tutti i costi questa immigrazione in una società già impoverita dal punto di vista economico, sociale, etico, morale, introduco gli immigrati. Ho 50 anni, una moglie, una figlia, un lavoro all'estero perché in Italia il lavoro è elemosinato. Ed ogni volta che guardo in Italia quello che succede, sento delle perpetue e delle comari che non fanno altro che pipipipipipi parlarsi dietro l'uno con l'altro. Ma dov'è la politica? Dove sono i programmi? Grazie, grazie. A volte ci sono, ma sono nascosti, a dire il vero, nascosti dalle beghe, appunto, dalle comari che chiacchierano pipi pipi pipi. Buongiorno Spezia, anche oggi ti controllo e ti vedo, occhio alle notizie che dai e soprattutto come le dai. Tranquillo Spezia, so che sei bravo. Le 7:21 minuti è la seconda parte di 24 mattino di questo venerdì 21 febbraio. Oh, in merito al primo WhatsApp che è arrivato, mentre questo ci ha ricordato che siamo anche in diretta su Facebook, quindi se volete ci trovate anche là, diretta video, quindi se volete vederci siamo anche là. In merito al primo, allora, uno può essere convinto di quello che vuole, che ci sia un piano, il terribile piano per l'invasione degli immigrati. Cioè, io penso francamente che sia un fenomeno normale, poi uno può decidere come governarlo. Però non è che questo ti giustifica e puoi prendere un fucile e ammazzare 11 persone, cioè giusto per mettere le cosine al loro posto, Dunque, la parte dedicata alla rassegna stampa di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Dunque, come sempre, le prime pagine dei quotidiani, innanzitutto le aperture dedicate allo sterminio razzista, come lo chiama la Repubblica in apertura, alla follia xenofoba come la chiama Avvenire in apertura, ai fantasmi dell'odio come li definisce il Manifesto. E dunque tre prime pagine, tre aperture dedicate all'estrema destra che colpisce in Germania. 9 i morti della strage xenofoba di Hanau. In Assia, ho detto 11 perché gli altri due sono l'assassino, il terrorista e la madre. Conte Ter, il piano senza Renzi è il titolo del Messaggero, insomma un po' di titoli dedicati ovviamente alla parte politica. Conte Ter, il piano senza Renzi è l'ipotesi del Messaggero, che verrebbe confermata dal Giornale, il quale parla di un Conte che prepara un nuovo governo. Il Corriere della Sera, in maniera più neutra, parla di un faccia a faccia tra i sospetti, che sarà quello tra Conte e Renzi. La Stampa, secondo La Stampa, il piano di Renzi punta su Draghi e quindi un governo di transizione con Mario Draghi. Secondo Libero, il governo è un morto che parla e c'è la gara ad esalare l'ultimo respiro. Il Quotidiano Nazionale ci informa che il 52% degli italiani approva la proposta di Renzi del sindaco d'Italia, ossia dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Il Fatto Quotidiano parla del tema delle nomine, dell'onorabilità, del requisito dell'onorabilità. Scusi, lei è imputato, ora il Tesoro farà nomine sulla parola. Prima del cambio di 400 posti, Gualtieri fa lo scaricabarile. Non starà più al governo a verificare i criteri etici. Il taglio del cuneo aumenta le tasse, secondo La Verità. Il governo non fa nulla e quando fa sbaglia. Il Sole 24 Ore parla di Italia ferma e del fatto che dilaga la cassa integrazione, il tutto accompagnato da un editoriale del direttore Fabio Tamburini, ci arriveremo tra poco, che parla del punto di rottura. Infine, un'occhiata alla Gazzetta dello Sport, titolo su Eriksen e quindi sull'Inter, palla a Eriksen, gol traverse, si accende il danese, così l'Inter riparte. Si parla anche della Roma. alla Roma basta Carles Perez, il Ghent battuto 1-0. Iniziamo come sempre però da qualche notizia laterale, da qualche notizia un po' diversa, poi con Paolo Mieli arriveremo alla parte centrale della nostra rassegna stampa con la politica e tutto il resto. Voglio iniziare da Roma e dalla cronaca di Roma del Messaggero. Ben ricorderete tutti quanti che discutemmo a lungo, abbiamo discusso a lungo nei mesi e negli anni scorsi del grande numero di palazzi occupati a Roma, nel complesso 82, di cui 25 devono essere prioritariamente sgomberati. Ebbene, che cosa succede? Che è stato varato un piano. Questo piano prevede una serie di sgomberi nell'arco di 7 anni. 7 anni è un tempo lungo, ragazzi, sono 7 anni per sgomberare tutti questi palazzi, ma questi tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. E perché? Perché in cronaca di Roma del Messaggero, a pagina 34, Fabio Rossi ci racconta che arriva di fatto uno stop agli sgomberi, perché con un asse Movimento 5 Stelle PD in consiglio comunale viene affossato anche il piano Lumaca. Sono passate 2 mozioni per ritardare gli interventi. Cosa succede? C'è stato appunto uno scontro, lo ricorderete, c'era un regolamento, un piano voluto dall'ex ministro dell'interno Matteo Salvini per liberare gli edifici occupati abusivamente. Ebbene, 5 Stelle e PD hanno votato reciprocamente i 2 ordini del giorno di contenuto molto simile presentati dai rispettivi gruppi in aula Giulio Cesare durante il Consiglio Comunale Straordinario di ieri, richiesto dalle opposizioni proprio sui temi degli sgomberi. Una seduta che ha avuto l'esito di bloccare anche i piccoli passi avanti fatti di recente. E dunque, si rallenta il piano perché prima bisogna trovare una dignitosa sistemazione delle persone sgomberate. Una retromarcia che Fabio Rossi definisce dolorosa per la città e per la legalità. Il Campidoglio vuole trovare soluzioni alternative per gli occupanti prima di sgomberare, lasciando di fatto gli immobili nelle mani degli abusivi, ma a chi chiede aiuto? Al governo, per ottenere i fondi necessari. Amministrazione centrale che però ha già i suoi problemi su questo fronte, perché lo racconta bene Lorenzo De Cicco a pagina 35, sempre della cronaca di Roma del Messaggero, che la prefettura di Roma, per esempio, si trova i conti correnti pignorati per 23 milioni di euro per la mancata liberazione di un palazzo, il palazzo di Viale Caravaggio a Tormarancia, in mano agli abusivi da 7 anni. Uno dei tanti, perché ce ne sono almeno 82 ostaggio delle occupazioni illegali di medie e grandi dimensioni, una situazione che potrebbe peggiorare. C'è un'altra sentenza da 28 milioni ancora non esecutiva che riguarda l'ex fabbrica Fiorucci in via Prenestina, 28 milioni di euro che potrebbero aggiungersi al pignoramento, a questo pignoramento da 23 milioni. E dunque la prefetta Gerarda Pantalone che cosa fa? Chiede un parere all'avvocatura dello Stato, perché dice: ragazzi, se questi mi rallentano i piani e io non posso sgomberare, io mi ritrovo tutti i conti pignorati e in una condizione economica decisamente complessa. Lentezze italiane, in questo caso acuite dalla politica. Lentezze italiane che troviamo riprodotte in altre 2 pagine di giornale. Andiamo sul Sole 24 Ore a pagina 31. Il dossier infrastrutture firmato da Marco Morino, il quale ci racconta che ci sono opere bloccate in questo paese per 62 miliardi. 62 miliardi. E serve, dicono, consultano Stefania Radoccia di EY, una società di consulenza, la quale appunto suggerisce che sono necessarie sostanzialmente nuove regole. Ma per darvi la misura di quello che succede, di quanto in realtà alla fine i soldi ci siano ma non si riescano a spendere, Morino ce lo racconta secondo me perfettamente. Nel 2018, ultimo dato disponibile, abbiamo assistito al paradosso del Ministero delle Infrastrutture che non ha speso 5,7 miliardi di euro dei fondi in bilancio. Non ne ha spesi 5,7, il 60% della disponibilità di cassa. Si trattava di risorse che per la maggior parte riguardavano infrastrutture pubbliche e logistica e soprattutto gli investimenti stradali dell'ANAS, e non è neppure la prima volta. Nel 2017 i fondi non spesi da parte del Ministero delle Infrastrutture erano ammontati a poco più di 4 miliardi. Quindi ogni anno ci sono miliardi di euro che lo Stato non riesce a spendere per questioni regolamentari. E dunque dal giornale peschiamo a pagina 6 la proposta che arriva da Maria Stella Gelmini, alla quale appunto il giornale dedica una pagina, pagina 6, una proposta di legge per accelerare. Qual è il punto? È che in queste ore abbiamo visto con la ricostruzione di Ponte Morandi, che sta andando, dell'ex Ponte Morandi, che sta andando veloce, no? Abbiamo visto che tutto sommato si può fare, si possono fare anche le cose rapidamente. Certo, non costruiremo un ospedale in quanto è stato in 2 settimane come hanno fatto a Wuhan, però insomma le cose evidentemente si possono fare. Parla di un modello Morandi, Maria Stella Gelmini, mette in campo una proposta di legge per replicare la corsia preferenziale che ha portato ai tempi record della ricostruzione del ponte Morandi. E pesco questo articolo non tanto e non solo per la proposta di Maria Stella Gelmini, ma anche per questa cosa che mi manda ai pazzi. Sono parole che usa la stessa Maria Stella Gelmini. Il miracolo del ponte Morandi che sarà inaugurato a meno di 2 anni da quella terribile tragedia. Ma quale miracolo? Ma di cosa stiamo parlando? Dovrebbe essere la normalità. Eppure, non è la sola che lo fa, ma un po' su tutti i giornali peschiamo gente che parla in questo caso di miracolo. Vi voglio portare in chiusura di questa prima parte su una storia che abbiamo già affrontato ieri, che abbiamo già toccato ieri, ed è la vicenda dell'omicidio del carabiniere Cerciello. Ci torna nuovamente Fiorenza Sarzanini. Ieri vi abbiamo raccontato del, sempre col pezzo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, oggi siamo a pagina 21, di queste intercettazioni ambientali fatte dei due considerati responsabili dell'omicidio, intercettazioni ambientali che erano state mal tradotte, facendo risultare che i due sapevano che stavano, che avevano incontrato due carabinieri, mentre invece loro hanno sempre sostenuto che non era così. Posto che ovviamente in questo caso l'omicidio rimane, però pensavano, loro sostengono di aver pensato che fossero dei malviventi, un malvivente, un tipo mafioso. Anche perché Cerciello, Rega e il collega Andrea Varriale erano vestiti in maglietta e bermuda, non avevano la pistola e, secondo le verifiche effettuate sul borsello della vittima, neanche il tesserino e le manette. E proprio questo ha avvalorato la possibilità che in realtà fossero fuori servizio. Cosa succede? Succede che oltre a queste intercettazioni che andranno, la cui traduzione andrà rifatta da un altro perito, c'è l'aggiunta che il del carabiniere sopravvissuto Varriale, quello che ha fatto le riprese dell'assassino che con una benda sugli occhi all'interno della caserma, ebbene questo cellulare, si apprende oggi, non è mai stato sequestrato dai magistrati. E dunque cosa succede? È mancata quella che potrebbe essere una delle prove fondamentali. Una pausa. Mattino. Bisogna fare i partiti piccoli di interdizione, se vuole lo possiamo fare anche io e lei. Comunque io sono convinto, forse che qualcosa possiamo raggiungere, no? Ma appunto. Se lo capeggia lei però, Sarei fiduciosa. Esatto, allora. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Dunque, il partito con Lilli Gruber, siamo partiti, la presidenza della Repubblica, e questo è il primo passo, no? Creare un partito di sostegno. Sì, avrai notato come ti ho sostituito, perché alla guida del PD ho messo Lilli Gruber, perché basta. Giusto, tu giusto. Esiti, tentenni, vuoi delle assicurazioni. Adesso non voglio essere scortese con te, ma mai stufato, o prendi subito le redini del PD oppure ci penserà Lilli Gruber, che è stata molto più disponibile di te. Io te l'ho detto, io voglio fare il segretario generale del Quirinale, voglio lavorare nell'ombra, voglio essere il tuo Richelieu. Va bene. Allora, Paolo Mieli, direttore, buongiorno, eccoci qua. Ti porterei proprio alla politica in apertura, che dici? Parliamo di politica, sì, parliamo. Anche perché sostengo che ti devi dare una mossa, ti devi decidere, perché ho letto l'editoriale fiammeggiante di Fabio Tamburini sul Sole 24 Ore dice, giustamente io concordo con lui, che siamo vicini al punto di rottura, espone tutta una lunga serie di speranze, dice purtroppo non è andata così e non viene persa occasione per buttare sul fuoco barilotti di benzina che stanno scatenando la reazione negativa di intere parti del paese. Prende sul serio l'analisi di Fabio Venturini, leggi, Tamburini, fammi favore, le pagine Fabio Venturini, Tamburini, Tamburini, scusa, certamente. Oggi farò lapsus continuamente perché c'è un giornalista importante del Corriere che si chiama Venturini, che si occupa oggi tra l'altro della questione libica. E comunque, che cosa farà Conte dopo l'uscita di Renzi a Porta a Porta? Conte ha deciso che forse vedrà Renzi. L'articolo è a pagina 6 del Sole 24 Ore, Emilia Patta, Manuela Perrone, ma tutti i giornali dicono che in realtà tutti i grandi giornali, alcuni in testata tipo il Messaggero o il Giornale, dice Conte ter, questo è il Messaggero, il piano senza Renzi, e il Giornale testata Conte verso il Tris prepara un nuovo governo, si intende senza Renzi. Sì. Comunque, per curiosità tua, sì, beh, tutti ridono di questa proposta di Renzi, qualcuno però la prende in considerazione. La proposta è di eleggere direttamente il capo del governo, farlo eleggere ai cittadini. Ma molto incuriosito, il quotidiano nazionale, sì, cioè Nazione, Resto del Carlino, che hanno fatto già un sondaggio su come andrebbe se si facessero le elezioni a maniera di Renzi. Sì, sì Paolo, prima di tutto hanno fatto il sondaggio se interessa o non interessa, e la maggioranza degli italiani dice sì, mi sembra una buona proposta, il 52%, i contrari sono il 26%, quelli che non hanno opinioni il 22%, quindi l'idea di eleggere il Presidente del Consiglio direttamente piace evidentemente, e poi chi sarà e chi potrebbe essere? E la sorpresa è che il candidato che raggiunge più voti e che vince tutte le competizioni non è, come chiunque avrebbe potuto pensare, Matteo Salvini, ma Giorgia Meloni, perché fanno due scenari: uno, se si vota direttamente e vince sempre Giorgia Meloni, alcuni le vince Matteo Salvini, altri le vince Giorgia Meloni, ma in una, sempre al voto, invece il voto con ballottaggio, sì, Matteo Salvini perderebbe con Giuseppe Conte. Matteo Salvini avrebbe il 48%, Conte il 52%. Chi vince anche quella è Giorgia Meloni. Sì. Strano, un partito che vale un terzo di quello di Salvini, però evidentemente Giorgia Meloni sta crescendo e potrebbe vincere. Quando si propone un'alternativa binaria a tutti gli italiani, vincerebbe anche quello con Giuseppe Conte. Comunque vedremo cosa succederà nelle prossime ore in questo incontro che qualche ascoltatore ci ha scritto stamattina, con quali armi si presentano Conte, con questa idea un po' del duello, no? tra Conte e Renzi, vedremo che cosa accadrà. Intanto ti chiedo notizie, caro direttore, delle sardine, ne abbiamo oggi? Ma come? Anche le volte in cui non ne parliamo di sardine, i giornali sono pieni. Oggi è pagina 6 di Libero, un'intera pagina sulle sardine, in cui anche Santori, il capo delle sardine, dice che è pronto a vedere Conte, e dice l'articolo di Alessandro Gonzato, te lo leggo tra virgolette perché è curioso, dice: la mia agenda non è comodissima, quella di Conte ancora meno. Se ci sarà un incontro sarà informale. Vedi, Santori parla, dice che c'è un'agenda ormai, bella piena. Ormai da leader politico, no? Sostanzialmente. Sì, dice anche che l'epoca delle piazze è finita, adesso bisogna fare grandi incontri, e però dà notizia anche di scontri all'interno delle sardine. Per esempio c'è un leader napoletano che si chiama Bruno Martirani, che dice che c'è stata una congiura delle altre, i burattini napoletani di Santori e Friends mi avevano cancellato dalla chat. Ci sono molte notizie di scontri fra leader Santori e Ugongo, poi l'ex capolista romano Mattia Ciappi, sì, che è stato emarginato. Insomma, le sardine sono in pieno fermento e sembrano aver ereditato immediatamente tutti i virus della sinistra. Scontri tra Renzi e Zingaretti. Vai nelle sardine e le piazze dicono non è più il momento di andare in piazza, ma di fare quegli scontri che mimano quelli fra Renzi e Zingaretti, quello è arrivato il momento. Certo. Temo che le sardine, tu gliele hai tirata le sardine. No, io no, andavano così bene. Massimo rispetto. Massimo rispetto. Sì, rispetti, ma ridi, ghignazzi, ed ecco che le sardine prendono in considerazione molto più te che me, e di questo io sono un po' offeso. Un po' offeso, comprendo. Segnalo, prima di andare a chiudere questa parte, poi ci ritroviamo subito dopo il traffico, solamente due interviste di oggi che mi paiono interessanti. Quella a Graziano Del Rio sul Corriere della Sera, a pagina 9, se il governo vivacchia dice è meglio andare al voto, parole che arrivano dal Partito Democratico. Fammi dire una cosa su questa intervista importante. Prego. Loro dicono tutti i giorni che al voto non ci si può andare, che è impossibile per delle tecnicalità su cui adesso non mi va di parlare, ma allora che vuol dire che a ogni intervista poi dicono o così oppure si va al voto? Tanto al voto non ci si può andare, quindi, e quindi l'alternativa è un'alternativa improponibile. Suggerirei a tutti i leader del Partito Democratico di non mettere quella seconda subordinata, o fate così oppure si va al voto, tanto al voto l'avete detto voi che non si può andare, e quindi sì. L'altra intervista che voglio segnalare, pagina 7 del Messaggero, allora non è una novità che a Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, volto storico, non piacesse Virginia Raggi, però insomma esplicitamente dice a Simone Cannettieri no al bis di Raggi a Roma, sì ad un accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico appunto per la capitale, un fronte interessante che si apre. Traffico. Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a febbraio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAIG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. Mattino. Allora, seconda parte, anzi terza parte della nostra rassegna stampa, che apriamo, direi, Paolo, con quelli che il Manifesto definisce i fantasmi dell'odio, con quella che Avvenire definisce una follia xenofoba, con quello che la Repubblica chiama sterminio razzista. Andiamo dunque ad Hanau, in Germania, dove un quarantenne tedesco, estremista di destra, ha fatto fuoco in tre bar frequentati da turchi e ha ucciso 9 persone. Tobias Ratien, tenete presente questo nome perché comparirà almeno per qualche giorno sui giornali, ha fatto questa strage. Tutti i giornali, i grandi giornali, dedicano le prime 2-3 pagine a questa strage del neonazista. In realtà poi la riconducono anche in Italia, soprattutto Repubblica, che pubblica un articolo di Gad Lerner, quel mostro nero che spaventa tedeschi e italiani, nel senso che tendono a dire che anche in Italia si è sottovalutato a lungo questo rischio, perché l'ex cancelliere socialdemocratico tedesco Wolfgang Schröder ha detto guardate, noi abbiamo sottovalutato, e molti giornalisti italiani dicono che si è sottovalutata anche in Italia, e dove vanno a parare? Su Salvini. Notano, c'è un articolo di Gabriele Isman, sempre su Repubblica, le diverse reazioni dei due leader sui social, mentre Meloni accusa direttamente terrorismo e xenofobia, Salvini, noto giornalista di Repubblica, è più generico, come a dire, eccolo qua il sottovalutatore di queste stragi, attenti che anche noi in Italia abbiamo un problema simile a quello della Germania, dove ieri è stata compiuta la strage. Sì. Io non so se il paragone regga, però una cosa mi sento di dire, sì, che bisognerebbe essere più sofisticati ed esaminare più a fondo ciò che accade negli altri paesi prima, sì, di tirare acqua al proprio mulino. Per carità, in politica tutto è legittimo, se uno, sì, vuole fare una battaglia politica non può, non solo la può, la deve fare, però aspettare un attimo e vedere prima i contorni meglio delle vicende, poi in un secondo tempo sì, avvicinarla alle cose che vuol dire in Italia, sennò sembra che qualsiasi fatto di politica internazionale tu lo tiri solo in Italia. Solamente dalla tua parte. E, dall'altra parte c'è Paolo, e mi piacerebbe sentire la tua opinione su questo. Un ascoltatore scrive: ma quale nazista? Era uno psicopatico. Che idee poteva avere un matto? La realtà è che quando si tratta di estrema destra in genere, un po' si fatica anche sui giornali, non solo tra i leader politici, a qualificarlo come terrorismo. E quello di ieri è un atto terroristico a tutti gli effetti. È un atto terroristico, sicuramente lui è un matto che tra l'altro era individuabile come tale già sui suoi siti, nel senso che tutte quelle che erano le sue intenzioni lui le aveva già dette, però adesso da una parte ho detto prima non buttiamola subito in caciara buttandola sull'Italia, dall'altra anche qui facciamo un'analisi più attenta, perché se questi matti possono agire indisturbati vuol dire che qualcuno glielo consente, se non altro le persone che si imbattono in quel sito e non lo denunciano, non dicono niente. Allora, ecco, qualche ascoltatore ci chiede della vicenda del coronavirus a Codogno, non parlate, ne abbiamo parlato prima in apertura, c'è GR24, non c'è sulle pagine dei giornali naturalmente perché non hanno fatto in tempo, la notizia è stata ieri, data ieri dall'assessore alla sanità della regione Lombardia a mezzanotte e tre quarti, intorno all'una, quindi i giornali non hanno fatto in tempo a scriverne, però appunto però, c'è un uomo, un 38enne. Perché questo 38enne non era stato in Cina, aveva avvicinato le persone reduce della Cina, però è la prima volta nel nostro paese che qualcuno che non viene dalla Cina si è beccato questa malattia. E voi capite bene com'è difficile adesso andare a vedere chi ha incontrato, sia per esserne infettato, ma chi ha incontrato subito dopo essere stato infettato, perché i virus si diffondono così. Quindi mi sembra legittima la preoccupazione, non tanto sul giornale perché sulla carta sì, stampata arriverà domani, ma la preoccupazione per questo caso in Lombardia è più che legittima. Abbiamo ancora un minuto, poi di questo torneremo a parlare tra poco in GR24, abbiamo ancora un minuto. Paolo, allora non è andata benissimo a Michael Bloomberg nel dibattito con i democratici, un po' i giornali lo riportano oggi. Ma come? Speravamo tanto, io e te in Bloomberg, eravamo così contenti che si affacciava finalmente un tipo più ricco di Trump, e dal tuo sorrisetto sento che in fondo tu sei più un giornalista che un politico impegnato, e quando vedi una notizia ghiotta ti metti a ridere. Effettivamente Bloomberg ha fatto un fiasco, adesso ha deciso di investire ancora più soldi, farà l'impossibile per ripresentarsi meglio, ma la cosa che più mi ha preoccupato, sempre da analista, ovviamente non da tifoso dei democratici, sì, io sono un tifoso dei democratici in America, però devo dire che purtroppo hai ragione tu a ridere, ha fatto pena questo debutto. E la Warren, che è una sua rivale, ha cominciato a dire che è uno schifoso, anzi ha fatto un tweet molto ambiguo, dicendo un sessista, un porco, uno schifoso, e poi dice no, guardate ragazzi, che io non sto parlando, quando dico è sessista e razzista, non sto parlando di Trump, ma sto parlando di Bloomberg. Corriamo contro un miliardario che definisce le donne grasse o lesbiche con la faccia da cavallo. Non sto parlando di Donald Trump, ma del sindaco Bloomberg. Perché, capirai, bene. Se i toni diventano se i toni sono questi, se i toni nel son mondo questi. Democratico stiamo freschi, la rielezione di Trump è garantita. Ma tu non riderne, No, per carità, massimo rispetto, massimo rispetto. Caro Paolo Mieli, ci sentiamo lunedì, alla solita ora. Noi ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Parleremo del referendum sul taglio dei parlamentari. Tra poco.